passé de la sera, mi hai rotto l'indugio in un baleno di sole morente, si presentano agli occhi stanchi per l'ultimo fiammeggiare d'ombra, per l'ultimo fiammeggiare d'ombra. Il cielo ha troppo languito e qualche luce appare di lontano dalle case, l'anima di suore alla foce, tracci di sussulti di un giorno. Raccoglie quel po' di tenerezza lasciata dal giorno e fuga ogni apparente dura inquietudine e un soffio la bagnata del pianto, un movimento acuto, un fluttuo senza un'eccitazione tagliente, un respiro a metà. E un soffio la sera, più bagnata del pianto, un movimento acuto, un fluttuo senza tazione tagliente, un respiro a metà, un respiro a metà. Palpita nel silenzio della notte che irrompe. E tutto sommerge quel po' di tenerezza lasciata dal giorno e fuga ogni apparente dura inquietudine.